Do la parola a Maria Cristina Belloni, la dottoressa Belloni, che ci parlerà sul tema problemi di confini, il caso della parte tedesca della diocesi di Trento. Sì, il tema che mi è stato proposto per questo convegno, appunto problemi di confini, il caso della parte tedesca della diocesi di Trento, si presta ad essere affrontato da molteplici punti di vista, ognuno dei quali, e questo sia detto anche a mia parziale discolpa, meriterebbe un'indagine molto più lunga e approfondita di quella che io ho potuto rivolgere al problema nel suo complesso. Si tratta di un tema nuovo anche per me in gran parte, del quale ho cominciato ad occuparmi da poco più di un anno, in rapporto appunto al progetto di schedatura delle visite pastorali trentine, voluto dall'istituto che ci ospita, per il quale ho effettuato appunto la schedatura delle visite pastorali, alla parte tedesca della diocesi di Trento, in particolare del materiale conservato all'archivio, storico diocesano di Bressanone. Appunto, dicevo, si tratta di un tema vasto che io cercherò di non tanto di svolgere quanto di accennare, articolando il discorso in tre punti fondamentali. Il problema dei confini istituzionali, e quindi per confini istituzionali intendo i confini diocesani, i confini poi delle circoscrizioni minori, quindi decanati e parrocchie. Il tema dei confini etnici, tra virgolette, qui soprattutto sulla base del materiale della documentazione ottocentesca e novecentesca che ho visto personalmente, in quanto è soprattutto dall'Ottocento e nel Novecento che questo problema dei confini etnici della parte tedesca della diocesi assume la massima rilevanza. E poi farò soltanto però un brevissimo cenno al problema dei confini culturali e liturgici, in quanto le visite pastorali dimostrano come appunto ancora nel Novecento fossero in uso nelle diverse parti della diocesi, cioè nella parte tedesca e in quella italiana, diverse pratiche liturgiche, alcune delle quali tra l'altro ritenute anche dalla curia trentina poco ortodosse e perciò combattute. Però su quest'ultimo punto mi riservo di lavorare e di trattarlo più ampiamente nel contributo scritto. Cominciamo allora dai confini istituzionali e per la precisione dai confini diocesani. Le frontiere ecclesiastiche tra la diocesi di Trento e quella di Bressanone si definiscono a grandi linee verso la fine dell'VIII secolo, quando viene eretto l'arcivescovato di Salisburgo. E da allora rimangono pressoché stabili fino quasi alle soglie dell'età moderna. Ci sono tentativi di adeguare i confini diocesani a quelli politici. Ci sono per tutta la fine del Medioevo, l'età moderna, a partire dall'imperatore Federico III, che per esempio, per tentare di limitare la ingerenza del Patriarcato di Aquileia e attraverso il Patriarcato di Aquileia, chiaramente della dei diritti patriarcali sulla diocesi di Trento. Questi tentativi comunque non andarono in porto e per ottenere appunto la soppressione del patriarcato aquileiese occorre attendere il 1751 quando Maria Teresa riuscì a ottenere appunto dal papato la soppressione dell'antica sede e l'erezione in sua vece di due arcidiocesi, una a Udine per i territori sottoposte alla Repubblica di Venezia ed una invece a Gorizia per non so se funziona, così si sente, perfetto. Ed una invece, dicevo, a Gorizia per i territori sottoposti al controllo imperiale. È proprio appunto a partire dal regno di Maria Teresa che si intensificano tutta una serie anche di tentativi e di pressioni sulla sede apostolica per ottenere una revisione dei confini diocesani tra Trento e Bressanone. Maria Teresa, per esempio, chiese più volte l'erezione di un vescovato bolzano a partire dal 1766 al cui sottoporre i territori, diciamo, italiani dipendenti dalle diocesi di Trento e Bressanone. In realtà questa richiesta non fu accolta, ebbe invece più successo il successore di Maria Teresa, cioè Giuseppe II, che nel 1785 riuscì ad avviare una prima revisione dei confini diocesani, la prima di una serie di revisioni che si successero a breve distanza di tempo e che portarono poi nel 1818 a quella definizione dei confini che rimase poi in vigore fino al 1964, quindi fino ai giorni nostri praticamente. Questa prima revisione del 1785 vide Trento acquisire il controllo, per esempio, della Val Sugana e di Primiero, della zona di Avio e di Brentonico, e la cessione a Brescia invece delle zone di Bagolino e di Tignale. Le revisioni successive sono tutte in rapporto invece all'avventura napoleonica. Nel 1808, in seguito alla conquista napoleonica del Tirolo, si ebbe un primo cambiamento dei confini diocesani, in seguito al quale Bressanone acquistò la Val Venosta, che prima era sottoposta a Coira, e il Vorarlberg meridionale, per realizzare la coincidenza tra i confini religiosi e quelle delle due nuove circoscrizioni politiche dell'Adige, che aveva sede a Trento, e dell'Isarco, che aveva sede a Bressanone. Nel 1812 si ebbe un nuovo adeguamento dei confini, in seguito al quale Bressanone perse gran parte della Val d'Isarco a favore di Trento, che però non ebbe grande durata, in quanto nel 1814, dopo la sconfitta napoleonica, si ritornò allo statu quo. L'ultima definitiva revisione fu quella del 2 maggio 1818, sancita con la bolla pontificia ex imposito, ottenuta appunto dall'imperatore Francesco I dopo una lunga serie di trattative con Roma. E questa bolla stabilì quanto segue, cioè che Trento ottenesse da Coira la Bassa Venosta, la Bassa Val Venosta e il Meranese, e ottenesse da Bressanone i decanati di Fassa, Castelrotto e Chiusa, e tra l'altro nel decanato di Chiusa era compresa Sabbiona, che era l'antica sede diocesana di Bressanone, quindi una perdita dolorosa e avvertita come tale dai vescovi appunto di Bressanone, e ottenne anche la parrocchia di Pennes in Val Sarentina, mentre già a memorabili poteva estendere la propria giurisdizione sul resto della valle. Bressanone fu in parte ripagata dalle perdite con la concessione di altri territori da parte delle diocesi di Coira, di Augusta, di Frisinga e di Salisburgo. Questi confini per l'appunto rimasero poi stabili fino al 1964, quando si ebbe l'erezione della diocesi attuale di Bolzano-Bressanone, col trasferimento di fatto della sede diocesana a Bolzano e l'adeguamento di nuovo dei confini religiosi ai confini politici, in quanto il territorio diocesano fu fatto coincidere con quello dell'attuale provincia autonoma di Bolzano, comprendendo anche tutti i decanati di lingua tedesca. All'interno dei confini diocesani le cellule di articolazione erano costituite dai decanati e dalle parrocchie. Per quanto riguarda i decanati, si può soltanto osservare che l'organizzazione dei decanati conobbe numerosi cambiamenti nel corso dei secoli. Infatti, come ha osservato tra l'altro Cecilia Nuvola nell'introduzione allo studio sulla visita di Ludovico Madruzzo, fino al XIX secolo, sto citando dall'introduzione, la divisione interna della diocesi e i confini territoriali dei singoli decanati non sono né rigidi né stabiliti con esattezza, essendo funzionali alla presenza in una determinata zona di un pievano particolarmente capace, colto e dotato di maggiore zelo rispetto al restante clero, al quale veniva conferita la carica decanale con competenze ispettive e direttive sui sacerdoti di un'area la cui estensione però non era fissa ma stabilita di volta in volta, appunto in funzione anche della sede del decano. All'epoca tridentina e post-tridentina, testimoniata dalle visite del Clesio e del Madruzzo, la diocesi, di Trento, compresa la parte tedesca, risultava articolata in 5 ampi decanati. Facevano capo a Trento, alle valli di Non e Sole, decanato delle Giudicarie, Vallagarina e decanato all'Adige, che comprendeva praticamente tutta la parte tedesca, più le valli di Fiemme e di Cembra e le parrocchie di Mezzocorona e Giovo. L'estensione di questo decanato è indicata nella tabella, nella prima delle tabelle che ho allegato, quella che reca in testa la dicitura parrocchie e che tra l'altro contiene un errore perché vede inclusa negli elenchi del 1579 e del 1749 anche Merano, che invece non ci dovrebbe essere. Faccio ammenda per questo errore di stampa. Solo comunque anche in questo caso all'inizio del XIX secolo si arrivò ad una precisa articolazione dei decanati. Così, se nel 1803 la parte tedesca della diocesi aveva decanati con sede a Bolzano, Villandro, Ultimo, Tiso e Appiano, la modifica dei confini nel 1818 comportò ovviamente anche una revisione dei confini dei decanati, in seguito alla quale i decanati assunsero la struttura che poi avrebbero conservato sostanzialmente fino appunto al 1964, che è quella indicata nella terza colonna della tabella sotto la data 1825. I decanati di lingua tedesca sono 10, con sede a Caldaro, ora che poi però viene spostato prima a Salorno e poi a Egna, Bolzano, Sarentino, Chiusa, Castelrotto, Lana, Merano, Pastiria e Silandro. Questi dati appunto si desumono con grande chiarezza dalla visita condotta a partire dal 1825, la visita generale condotta dal vescovo Francesco Saverio Lushing, che fu anche la prima visita condotta dopo la revisione dei confini diocesani e la prima visita generale condotta alla diocesi di Trento dopo quella di Cristoforo Sizio De Noris del 1766, quindi una visita che segue a grande distanza la precedente. Per quanto riguarda invece i confini parrocchiali, si nota una situazione profondamente diversa. Infatti, se i confini decanali sono soggetti a frequenti mutazioni, i confini parrocchiali appaiono decisamente stabili, molto stabili. Quasi tutte documentate per la prima volta tra il XII e il XIII secolo, e le date che ho riportato a fianco delle parrocchie che ci sono indicate nella tabella sono desunte soprattutto dal Catalogus Cleri e dall'Azschatz, ma su questo problema dell'organizzazione delle pievi sta conducendo una ricerca Emanuele Kurzel, che tra l'altro è qui in sala, con la quale sono sicura che molte di queste date potranno essere corrette e rese molto più verosimili. Dicevo, comunque, queste parrocchie sono quasi tutte documentate per la prima volta tra il XII e il XIII secolo, anche se sicuramente affondano le proprie radici in epoche precedenti, almeno in gran parte. Le più antiche sono quelle di ora: Bolzano, Nova Ponente, Appiano, Gris, San Genesio Atesino, Caldaro, Lana, San Leonardo in Passiria, Maia, Marlengo, Terlano, Meltina, perché questo è un caso un po' particolare, Salorno, Sarentino, Scena, Tesimo, Ultimo, Vanghe e Villandro. E poi la pieve del Renon, con sede a Longomoso e Auna, anzi con sede prima ad Auna, poi a Longomoso, che però per un buon periodo compaiono nelle visite tutte e due come sedi parrocchiali, senza che sia possibile stabilire una supremazia dell'una sull'altra. Dopo questa prima serie di parrocchie vengono fondate, nelle visite pastorali anteriori al 1800 risultano attestate le parrocchie di Montagna, fondata nel 1437, Termeno 1448 e Cortaccia 1517. La rete che così si definisce rimane pressoché invariata nel corso dei secoli fino alle soglie del Novecento. Le ampie o amplissime circoscrizioni parrocchiali, comprendenti numerosi centri abitati, talora anche cospicui, e decine di centri di culto, sembrano resistere praticamente immutate. Al loro interno ci sono naturalmente dei cambiamenti, e cambiamenti anche sostanziali, con erezione di nuove chiese, trasformazione di cappelle in espositurali e poi in curaziali, e in alcuni casi lo spostamento stesso della sede parrocchiale da un centro all'altro, spostamento che avviene però all'interno della stessa circoscrizione. È il caso, per esempio, a cui accennavo prima, di Meltina e Terlano, in cui la parrocchia che ha sede originariamente a Meltina viene poi spostata nel XV secolo a Terlano per tornare quindi a Meltina dal 1630 e rimanervi in sostanza poi fissa, perché Terlano fu retrocessa a curazia, dipendente appunto dalla parrocchia di Meltina, e riacquistò i diritti parrocchiali soltanto nel 1896, quindi alla fine del secolo scorso. È il caso di, della parrocchia di Magrè, che ebbe probabilmente sede in origine a San Floriano, che attualmente è una frazione del comune di Egna. Dicevo però cambiamenti interni e emancipazione delle chiese, sviluppo di una notevole autonomia da parte delle chiese filiali, senza però mai che si arrivi alla scissione della circoscrizione parrocchiale e alla creazione di nuove parrocchie. E ci si può chiedere perché questo. Io me lo sono chiesta, non so rispondere sinceramente. Ci sono sicuramente, si possono fare diverse ipotesi, sicuramente un peso notevole ha la situazione geografica e insediativa di questa zona, però non credo che sia una giustificazione sufficiente, insomma. Come dato di fatto possiamo osservare che praticamente dal 1448 al dal 1517, cioè dalla fondazione della parrocchia di Quartaccia, al 1810 in tutta la diocesi di Trento, in tutta la parte tedesca della diocesi, viene eretta solo la parrocchia di Caldaro, di Cornaiano, che già dipendeva da Caldaro, che viene eretta nel 1797. Nella tabella compare anche Nova Levante come parrocchia fondata nel 1604, però Nova Levante è una di quelle parrocchie che passano a Trento nel 1818 con lo spostamento dei confini diocesani, quindi nel momento in cui viene eretta la nuova parrocchia è sotto il controllo della diocesi di Bressanone. Dopodiché abbiamo in tutto l'Ottocento la fondazione di tre parrocchie, praticamente Tires, 1810, appunto con le pietre 1811 e nel 1841 Egna, che però presenta una situazione particolare, in quanto benché la sede della Pieve fosse situata prima ad Ora, già la Pieve aveva la denominazione di Plebs de Egna e di fatto è discusso se effettivamente la sede dei diritti di parrocchialità competessero a Egna oppure a Ora. Per assistere comunque, credo che la tabella da questo punto di vista parli chiaro, a un vero, a una vera diciamo, demolizione delle vecchie circoscrizioni parrocchiali, che poi altro non sono che le circoscrizioni pievane originarie, bisogna arrivare alla terza visita in Drici, quindi 1936-1940, quando finalmente compaiono, una visita purtroppo parziale, però finalmente nei decanati visitati compaiono nuove parrocchie con pieni diritti. Dicevo, perché questo? In alcune zone si può appunto pensare che la causa fondamentale sia di tipo geografico ed insediativo. Pensiamo per esempio a zone come quelle delle parrocchie di Laiono Castelrotto, che ho illustrato nella seconda tabella, oppure le altre valli, non so, io la Val Sorrentina. È molto difficile, il tipo di insediamento sparso caratteristico dell'area tedesca e anche la scarsa densità demografica possono essere una motivazione che appunto giustifica questa forte resistenza dell'unica parrocchia in queste aree. Però è un fatto che la resistenza di queste circoscrizioni parrocchiali si evidenzia anche in zone in cui questi ostacoli geografici non esistono. Basta pensare alla zona di Caldaro o di Appiano, che sono ad alta densità demografica, ci sono nuclei abitati cospicui, c'è una pluralità di enti di culto, però appunto la sede parrocchiale rimane unica fino a ben dentro l'età contemporanea, direi. È molto verosimile che ci fossero anche motivazioni di tipo, tra virgolette, politico, però appunto credo che sia un settore che vada indagato a fondo, perché si tratta di una situazione che tra l'altro riguarda anche parte, almeno parte, della parte italiana della diocesi di Trento e che differenzia nettamente questa zona da quella che è la situazione invece del resto d'Italia. Colpisce anche un confronto tra i due centri principali di quest'area, che sono Trento e Bolzano, Merano e Bolzano. Merano, che ricordiamo, passa alla diocesi di Trento solo nel 1818, mentre prima dipendeva da Coira, si presenta al momento in cui viene inserito nella diocesi di Trento come circondato da tutta una serie di altre parrocchie, e parrocchie di antica o antichissima fondazione. Basti pensare a Tirolo, appunto, che poi ha una rilevanza ovviamente notevole, dovuta anche al fatto di essere la sede, appunto, dei conti del Tirolo, Caine, Squarazze, Ragundo, Scena, e poi Lana, anche questa fondata a Bimemorabili, e sede dal 1818 di un decanato. Per quanto riguarda Lana, Maia e altre parrocchie della zona, bisogna comunque ricordare che fino al 1818 è proprio lungo i confini tra queste parrocchie e quella di Merano che corre il confine tra la diocesi di Trento e la diocesi di Coira. E questa situazione, appunto, di confine tra due diocesi sicuramente spiega in parte questa molteplicità di centri di culto. Dall'altra parte Bolzano. Bolzano ha una parrocchia unica, che estende la propria circoscrizione a gran parte delle località limitrofe e anche a Laives, che è un centro anche di notevole consistenza demografica, che di fatto fino al Novecento rimane una filiale curata di Bolzano. L'unica rivale su cui Bolzano a cui Bolzano deve far fronte è in un certo senso al suo interno, cioè la parrocchia di Gries, anche questa fondata a Bimemorabili sulla sponda opposta del Talvera rispetto alla parrocchiale di Bolzano, e con la quale poi, appunto, la parrocchiale di Bolzano avrà una disputa soprattutto nel Settecento relativamente alla giurisdizione sulla chiesa di San Quirino, che in seguito a una riforma, appunto, settecentesca, viene trasferita dalla parrocchia di Bolzano, a cui era sempre appartenuta, alla parrocchia di Gries. Certo, questo tipo di dipendenza dalla matrice, dall'antica parrocchiale, in molti casi è ormai puramente formale, e credo che quanto fosse formale questa dipendenza sia dimostrato soprattutto dal caso dei centri di cura d'anime della Val Gardena, che fin dalla fondazione dipendevano dalla parrocchia di Laion, che è situata, appunto, sullo spartiacque tra la Val d'Isarco e la Val Gardena. Laion è una di queste parrocchie veramente immense, che estende la propria giurisdizione su due delle valli laterali, delle valli trasversali alla Val d'Isarco, cioè Val Gardena e Val di Funes. Se guardate la seconda delle due tabelle, io ho riportato gli enti dipendenti, appunto, dalle parrocchie di Laione e di Castelrotto in base alla visita del 1825 e alla visita a due delle visite Endrici, la prima e la seconda, perché i due decanati vengono visitati in due momenti diversi. E al di là della maggior precisione della visita Endrici, che effettivamente di tutte le visite schedate per la banca dati è sicuramente la più ricca, può vedere come praticamente dal 1825 al 1910 si sia avuta la scissione della parrocchia di Laion con la fondazione di due nuove parrocchie, a Funes e a Tiso. Non compare però in questo elenco, benché dipendesse ancora nel 1910 da Laion, non compaiono i centri della Val Gardena, perché i centri della Val Gardena dal 1818 erano stati inseriti con la riforma dei confini dei decanati nel decanato di Castelrotto. Continuavano a dipendere dalla parrocchia di Laion. Ancora il Catalogus Cleri, nell'edizione del 1912, riporta che le curaziarie della Val Gardena, le chiese della Val Gardena, erano filiali della parrocchia di Laion. Però di fatto vengono visitate insieme al decanato di Castelrotto, spesso e volentieri sono visitate dal decano di Castelrotto e i documenti relativi alle visite a queste parrocchie si trovano allegati alla relazione del decano di Castelrotto. Anche in questo caso la Val Gardena comunque rimane sostanzialmente priva di una sede, di una parrocchia fino ai primi del Novecento, in quanto la fondazione della parrocchia di Ortisei, che peraltro non aveva giurisdizione sugli altri grossi due centri principali della valle, cioè Santa Cristina e Selva, è dell'inizio del Novecento. Facendo rapidamente agli altri due punti, molto rapidamente, cioè il problema dei confini etnici. I confini etnici, dicevo, non è che non fossero percepiti prima dell'Ottocento. Già in una relazione ad Elimina, che è stata edita ancora da Cecilia Nuvola, il vescovo Ludovico Madruzzo dimostra piena coscienza della differenza etnico e culturale che esiste tra le due parti della sua diocesi. Però non vengono percepiti come un problema. Cominciano ad essere percepiti come un problema a partire dalla metà dell'Ottocento soprattutto, e le visite pastorali lo dimostrano. Vengono percepiti come un problema ovviamente in rapporto con la diffusione dei movimenti nazionalisti ed irredentisti che vengono a minacciare l'integrità della, appunto della compagine asburgica che estendeva il proprio potere sul, appunto sull'intera diocesi di Trento. Non dimentichiamo che il vescovo di Trento era principe vescovo dell'impero e lo resterà fino all'abolizione. Per quanto riguarda il titolo di principe vescovo, sarà abolito nel 1950 e la secolarizzazione poi del principato invece precedente risale all'età napoleonica, però comunque l'impero asburgico conserva naturalmente la propria giurisdizione sul Trentino attuale, cioè come ben sappiamo tutti quanti. Cominciano a diventare un problema a partire dal vescovato soprattutto di Benedetto Riccabona, che diventa vescovo di Trento nel 1861, e appunto dicevo, le visite pastorali recano tracce di questi problemi. Si può, esaminando i documenti allegati soprattutto alle visite pastorali dell'Ottocento e del Novecento, si può assistere a questa escalation della tensione tra i due gruppi etnici. Una tensione che cresce esponenzialmente soprattutto dalla fine dell'Ottocento, quando cominciano ad essere fondate le associazioni nazionaliste. Da parte italiana la Lega Nazionale, prima la Pro Patria, poi la Lega Nazionale, poi nel 1905 la fondazione del Tiroler Volksbund, da parte tedesca, che avrà degli scontri durissimi con il vescovo di Trento all'epoca, che è Celestino Endrici. Non mi soffermo su questa parte che appunto vorrei sviluppare poi per la relazione scritta, però segnalo soltanto che ad esempio nella cartella che conserva gli atti della prima visita a Endrici, 1904-1912, c'è un intero fascicolo che conserva una rassegna stampa dedicata proprio agli scontri che si ebbero tra il vescovo e il Volksbund tra 1911 e 1912, soprattutto in occasione della visita pastorale a Merano. E io ho riportato sulla fotocopia, dove ci sono le tabelle, i titoli di due giornali, la Meraner Zeitung e il Burgläfer Meraner Anzeiger, del 19 e 20 aprile 1912, che sono rispettivamente la vigilia dell'arrivo dell'Endrici a Merano e il giorno dell'arrivo di Endrici a Merano, perché mi sembra che siano emblematici proprio della spaccatura che si era creata, una spaccatura trasversale che aveva interessato tutta la diocesi e anche la stampa, tra i due schieramenti. Leggeteli, insomma, credo che parlino da soli, non ci sia bisogno di ulteriori commenti. Mi fermo qui, grazie. Ringraziamo anche la dottoressa Belloni, che purtroppo ha dovuto un po' tagliare alla fine del suo intervento, ma mi pare che abbia sollevato un problema molto importante, nel senso che anch'io mi sono spesso chiesto, perché credo che per la parte italiana la diocesi, la situazione non sia diversa. il motivo del perdurare di questa struttura pievana, ma più che alto medievale, successiva, nel senso sì, che sì. Da Lizzana a Rovereto l'adeguamento a un certo momento avviene, mentre sussistono delle situazioni veramente paradossali da un punto di vista dell'organizzazione parrocchiale, per cui c'è una valle come la Val di Non, con credo un 30 o 40 sedi parrocchiali, mentre l'intera Val di Fiemme, l'intera Val di Cembra hanno un'unica sede parrocchiale. Ecco, quindi l'inerzia, la lunga inerzia che credo sia emersa bene dalla sua relazione. Quindi forse io devo andare via purtroppo alle 6. Ecco, perché allora in questo caso facciamo uno strappo e prima della pausa, magari se ci sono interventi, richieste di chiarimenti, domande per quest'ultima relazione della dottoressa Belloni, facciamo subito. Ecco. Prego. Come la dottoressa ha accennato, io mi sto occupando della nascita del fenomeno pievano nella diocesi di Trento e volevo un po' proporre un po' come argomento di riflessione, un po' come parziale risposta, dire qualcosa su questo problema della continuità, cioè della sostanziale stabilità in tutta la diocesi delle circoscrizioni pievane, che nella grande maggioranza dei casi trapassano tranquillamente nelle circoscrizioni parrocchiali raggiungendo fino alle soglie del 900. La mia osservazione è questa: forse dovremmo accantonare per un attimo la nostra ammirazione nei confronti di questa continuità e porci il problema di perché questa continuità va in pezzi nel 900. Perché un secolo fa, in un convegno, in un ipotetico convegno su questo stesso argomento, nessuno si sarebbe posto il problema di perché queste circoscrizioni sono sopravvissute fino alla fine dell'Ottocento, perché sopravvivevano anche allora. Di fatto siamo di fronte a un sistema organizzativo che insieme garantiva una cura d'anime soddisfacente in tutti i centri abitati della diocesi e contemporaneamente garantiva l'esistenza di livelli organizzativi, appunto pievano, prima pievani, poi parrocchiali, di dimensioni tali da reggere l'urto dei secoli. Mentre è nell'ultimo secolo che le parrocchie trentine si sono moltiplicate. Ora, sul territorio della diocesi di Trento, nel Medioevo abbiamo, nell'attuale diocesi provincia, abbiamo una sessantina di circoscrizioni pievane, poi parrocchiali, che diventano, se non sbaglio, 20 o 30 di più nel corso fino alla fine dell'Ottocento. Oggi mi pare siano 450, una situazione assolutamente insostenibile dal punto di vista organizzativo, tanto è vero che il calo devozionale, il calo vocazionale, il calo del numero di sacerdoti fanno sì che molte di queste parrocchie di 100-150 abitanti stiano di fatto sparendo, anche se di diritto continuano a sussistere. Quindi, tornando al discorso iniziale, secondo me vi è da una parte, bisognerebbe cercare di astrarre la nostra visuale dalla situazione attuale, che sicuramente è distorta e sicuramente verrà ancora a modificarsi nei prossimi 20, 30, 40, 50 anni. Magari fra un secolo si tornerà a una situazione molto simile a quella che abbiamo avuto fino al secolo scorso. E quindi questo 900 sarà considerato solo come una parentesi, con logiche sue rispetto a, processi di lungo periodo che invece prevedono una maggiore dimensione delle circoscrizioni ecclesiastiche. D'altra parte, ecco, bisognerebbe invece investigare quelli che sono i motivi che hanno costituito, che hanno basato il fatto che queste dimensioni fossero ottimali per un mantenimento stabile della cura d'anime in questa zona. Ecco, non tanto quindi perché non si sono rotte prima, ma grazie a che cosa hanno potuto andare avanti fino ad oggi e che cosa invece le ha mandate in pezzi. Ecco, questa è un po' la mia osservazione su questo punto. Ci sono altri interventi su questo punto, comunque sui temi della relazione della Belloni? Prego, dovrebbe venire. La mia è più una una domanda che mi intervento, cioè siccome ha saltato il terzo punto della sua relazione, che è quello che sembrava interessarmi di più, le chiedevo se lei ha parlato di percezione del conflitto dal punto di vista etnico, ne ha parlato brevemente, se il problema della percezione appunto etnica è legato oppure ha degli scarti rispetto alla differenza dei procedimenti liturgici tra la parte latina e la parte tedesca della diocesi, e in quale misura questo viene fuori dalla visita, in che progressione, se già per i secoli qui XVI, XVII, se è una progressione che lei sente più forte, viva nell'Ottocento, quando anche il problema etnico si rafforza. Grazie. Rispondo subito. No, direi che c'è una stretta coincidenza, almeno negli atti di visita, tra l'attenzione per appunto il problema dei confini etnici e quello degli usi liturgici. Nella stessa visita in cui c'è questa rassegna stampa, nella stessa cartella, nella stessa raccolta di atti visitali in cui c'è questa rassegna stampa, c'è un altro fascicolo che si intitola Disposizioni liturgiche per la parte tedesca della diocesi, per esempio, che riguarda proprio tutta una serie di decreti visitali emanati da Lendrici e diramati poi non solo ai tutti i decani della parte tedesca della diocesi, ma anche per esempio ai padri provinciali dei Cappuccini e dei Francescani che avevano sede a Innsbruck, quindi a tutte le autorità che esercitavano la cura d'anime in qualche forma nella diocesi, per disciplinare questi usi, che erano usi soprattutto legati al culto eucaristico, che lui riteneva poco ortodossi, poco conformi a quanto stabilito soprattutto nel concilio provinciale che era stato tenuto poco prima. E sì, tra l'altro direi anche un'altra cosa, che già ai tempi di Riccabona, quando si manifestano le prime attenzioni per questo aspetto, c'è comunque anche una siamo nel periodo in cui si rafforza anche appunto la coscienza del problema etnico, e poi c'è da parte per esempio di Riccabona, del vescovo Riccabona, quindi anni 60-70 del XIX secolo, un risveglio dell'attenzione nei confronti di possibili infiltrazioni protestanti della Germania, in rapporto anche con un'ondata di protesta che si era sollevata nella parte tedesca, soprattutto della diocesi e poi oltre confine, contro il decreto sull'infallibilità papale che era stato emanato. Aveva portato, insomma, non era stato accolto bene, aveva portato a una ripresa anche di certe tendenze decisamente ritenute poco ortodosse dalla curia trentina. Quindi direi che i due problemi sono in rapporto. Per quanto riguarda la documentazione cinquecentesca, purtroppo non posso rispondere perché non l'ho vista personalmente e quindi non so cosa ci possa essere o non essere. Per quanto riguarda invece quella più recente, decisamente c'è una coincidenza tra i due aspetti. Prego. Ci sono altre ma a Kurzel dico soltanto che ha ragione, cioè sono d'accordo con lui, nel senso che effettivamente il problema, più che di chiedersi perché si sono rotte, è di chiedersi perché sono sopravvissute, perché per così tanto tempo hanno funzionato, perché funzionavano poi. Cioè non erano avvertite come una sopravvivenza arida ed inutile, effettivamente era un sistema che funzionava, che comunque differenzia, cioè il fatto che questo sistema abbia resistito, sia sopravvissuto e abbia funzionato fino alle soglie del Novecento, differenzia in maniera netta questa zona dalle altre realtà italiane, almeno dalle altre realtà italiane che io conosco. E quindi sono d'accordo con lui, bisogna chiedersi perché. Comunque credo sempre che, cioè, bisogna chiedersi perché, ecco, interpretando il problema o da un punto di vista o dall'altro, però bisogna indagare su questa. Le chiese filiali a cui lei, non voglio personalizzare, no, ma le chiese filiali a cui lei alludeva non potrebbero essere state. state un po' il certo correttivo? Certo, ma alcune di queste chiese filiali... protestavano le comunità in cima alle montagne. Sì. Ma alcune di queste chiese filiali avevano anche un'autonomia, soprattutto a partire dal Settecento però, nella parte tedesca della diocesi. Molte erano curaziali, quindi avevano un'autonomia maggiore. C'erano anche parecchie espositurali, quindi con un curatore d'anime residente, però praticamente privo di diritti, cioè nel senso che l'esposito era un cooperatore del parroco, comunque in tutto e per tutto sottoposto al parroco. Le curaziali avevano una pienezza di diritti molto molto maggiore. Si fondano soprattutto dal Settecento in poi, però io ho visto che prima del Settecento curaziali non sono tantissime, e poi comunque rimane la parrocchiale, cioè queste curaziali nel resto d'Italia, mi viene da dire, sarebbero parrocchie da tantissimo. Qui restano curaziali, quindi restano chiese filiali. Infatti è in quel senso che, credo, dicesse anche Kurzel, cioè era un sistema che comunque funzionava, garantiva la cura d'anime, la garantiva in maniera soddisfacente. Però al tempo stesso era tanto forte questo sistema da garantire la sopravvivenza di queste strutture senza che si arrivasse alla scissione della circoscrizione pievana.